Dovici da piangere, m'hai fatto tanto male al cuore, perché io so che il tuo dolore non è per me. Sentito di chi tanto ti fa soffrire senza pietà. Fatto tanto male al cuore, perché io so che il tuo dolore non è per me. Perché io so che il tuo